in primo piano. Buongiorno, buon martedì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che riprende il tema dei professionisti e dell'equo compenso, perché ieri ci sono stati dei nuovi sviluppi, quindi il titolo Avvocati sì a nuove parcelle. Non sono naturalmente, questo primo provvedimento riguarda solo gli avvocati, ma naturalmente sì, è così al centro del dibattito, diciamo, normativo, perché potrebbe presto essere esteso ad altre categorie di professionisti. L'analisi è di Maria Carla De Cesari, alla ricerca di nuovi equilibri. Molto spazio anche al lavoro dei giovani, in tanti sensi. Primo, perché nella manovra che presto sarà definitiva, probabilmente si dovrà mettere un tetto ai bonus e quindi quasi certamente freneranno anche le assunzioni. D'altro canto si sapeva che questi bonus prima o poi sarebbero finiti. Molto interessante anche l'analisi di Carlo Carboni, il punto cieco dei giovani, questo tema del lavoro giovanile e anche dell'alternanza scuola-lavoro, di come le università dovrebbero, almeno per certe facoltà, essere il più possibile collegate al mondo del lavoro e della ricerca. Il Sole 24 Ore ha avviato un dibattito che oggi prosegue anche a pagina 8 con un intervento di Marco Leonardi. Maggiore collaborazione fra atenei e istituti tecnici superiori. Sempre sulla scuola trovate a pagina 2 le due notizie di ieri, cioè che da una parte arrivano ufficialmente 58.000 nuove assunzioni nella scuola e dall'altra c'è una fase di sperimentazione della maturità in 4 anni, che è già realtà in altri paesi. Poi naturalmente vi segnalo la puntata numero 7 dell'agenda del professionista, che poi trovate a pagina 16. Il tema di oggi, ci manca Mauro Meazza per parlarne, è la voluntary disclosure, cioè lo svelamento volontario di capitali detenuti, cioè l'ammissione e quindi poi il rientro con relativa imposizione fiscale di alcuni capitali detenuti all'estero. E appunto, siccome si decide senza prima ancora che magari venga a chiedercene conto il fisco o l'Agenzia delle Entrate, ci sono dei vantaggi fiscali. Vi segnalo anche, in particolare a un ascoltatore che è molto attento alla questione, era anche rimasto così deluso dal fatto che io avessi nominato Amazon per dire che avevo comprato un libro su Amazon, poi avevo spiegato che potevo comprarlo solo lì perché era un libro in tedesco che non era disponibile nelle librerie italiane e non pensare di andare in Germania solo per comprarlo era un po' troppo. La questione Amazon, che abbiamo trattato sul Sole 24 Ore anche di domenica, collegandola alla crisi dei department stores americani, cioè questi grandi, una volta in Italia li chiamavamo grandi magazzini, poi il termine è caduto un po' in disuso perché in realtà sono praticamente dei posti dove la qualità dei prodotti venduti è medio alta e alta, quindi grandi magazzini non sembrava nemmeno la Rinascente che così veniva definita, viene più chiamata così, ma appunto department store, e sono in crisi, in profonda crisi. Una delle cause è Amazon, e da qui l'analisi di Paola, il lungo articolo di Laura Cavestri, che poi trovate a pagina 12 del Sole, richiamato in prima pagina. Effetto Amazon e allarme per il retail. Ci fermiamo però un attimo per la prima pausa sul traffico. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta In primo piano. E rieccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, a parte il Sole 24 Ore che si concentra su queste misure sui professionisti e tutto quello che riguarda la scuola e i giovani e il lavoro giovanile. La maggior parte degli altri giornali hanno in prima pagina lo scontro che c'è all'interno del governo tra il ministro delle Infrastrutture Delrio, che aveva già criticato il ministro degli interni Minniti e ieri sostanzialmente ha rincarato la dose, tanto che Minniti avrebbe, perché questo è un retroscena che però raccontano tutti i giornali, avrebbe minacciato le dimissioni. il premier Gentiloni gli ha dato la sua il suo, gli ha ribadito il suo sostegno, pare che non bastasse, quindi anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pubblicamente elogiato il ministro Delrio e che il ministro Minniti, e da qui per ora le dimissioni sono scongiurate. Quindi il titolo del Corriere della Sera: migranti, il colle con Minniti. Il Corriere della Sera ospita anche una lettera di, del ministro, dell'attuale ministro degli esteri Angelino Alfano, che una volta era il ministro dell'interno e che si autoelogia, possiamo dire così, spiegando che oggi alla Farnesina ci sarà un incontro con il nuovo rappresentante speciale per la Libia delle Nazioni Unite, alla sua prima missione diplomatica in Europa da quando ha assunto le sue funzioni. Io non ho ancora sentito fare ad Alfano una autocritica su quello che ha fatto quando era ministro degli interni, perché quello che ha fatto Minniti in pochi mesi Alfano non lo ha fatto in anni, sia in termini di contatti con la Libia, paese che Minniti ha visitato come praticamente una delle sue prime mosse quando si è insediato come ministro degli interni, e il codice del, per i rapporti che le ONG, il comportamento che le ONG, le navi delle ONG devono avere quando incontrano le navi con i migranti, anche qui è tutta farina di Minniti, e l'emergenza non è certo nata con Minniti. In ogni caso, oggi Alfano si sente di scrivere questa lettera al Corriere per spiegare, per anticipare di quali argomenti parleranno alla Farnesina oggi con il rappresentante speciale per la Libia delle Nazioni Unite. La Repubblica, stesso titolo praticamente, o comunque titola sullo stesso argomento: Delrio, due punti, guerra agli scafisti, non alle ONG, perché la Repubblica ospita anche un'intervista al ministro Graziano Delrio, che poi anche qui è il ministro delle infrastrutture, quindi uno si aspetterebbe, certo, è giusto che ci sia dialogo tra all'interno del governo, che ognuno possa esprimere le sue posizioni, ma non sembra esattamente il ruolo o la materia di Delrio questa, quindi perché debba così insistentemente criticare il suo compagno di governo, non so. Comunque la Repubblica ha anche un editoriale del direttore Mario Calabresi che, devo dire, in alcuni punti mi ha lasciato molto perplessa. Ve ne leggo una parte. Un'onda melmosa composta di false percezioni, di paure e di sconsiderata propaganda sta sommergendo il nostro dibattito pubblico, rendendolo sterile e spaventoso. Parole e aggettivi forti. La razionalità è scomparsa da un pezzo, sostituita da emozioni, immagini forti e pericolose semplificazioni. E poi prosegue. Si sono persi di vista numeri e contesti. Nessuno ha più il coraggio di far notare che 100.000 persone che arrivano dalle coste africane sono certo tantissime e destano allarme. Ma sono pur sempre quanto i tifosi, attenzione, di due partite della Roma e del Milan. E questa è la frase che mi ha più lasciato perplessa. Li si può contenere in uno stadio e mezzo di un paese che di abitanti ne ha 60 milioni. Io invito Mario Calabresi ad andare in stazione centrale a vedere in che situazione vivono queste persone, e non sono 100.000. Nei centri di prima accoglienza, nei paesi più piccoli, sia del nord che del sud, per capire effettivamente che cosa, come vengono poi smistati e ospitati, e come vivono questi 100.000 migranti che lui sembra quasi consigliare di contenere in uno stadio. Dopodiché questo editoriale serve anche a spiegare perché la Repubblica, e lo vedremo da oggi, pubblica degli approfondimenti su quello che le ONG fanno, ma anche qui certo che le ONG, poi sappiamo, nel nostro paese il terzo settore è importantissimo, ma mischiare tutto, il ruolo delle ONG in tanti altri settori e quello che stanno avendo nell'immigrazione, per uno che dichiara di voler far parlare i numeri e i fatti, mi sembra un po' bizzarro. Tanto che poi a pagina 27, dove continua l'editoriale di Mario Calabresi, conclude: Di fronte all'onda melmosa, un giornale ha una sola possibilità: restituire ai fatti e alle parole il loro significato e cercare di ripulire il dibattito dalle scorie e dai veleni. Forse non ha letto con attenzione, aggiungo io, il lungo intervento di Roberto Saviano, dove di veleno e di scorie ce n'erano parecchi, soprattutto contro il segretario della Lega Nord Matteo Salvini, per esempio, che sicuramente a sua volta usa toni non propriamente delicati e concilianti, ma se la teoria è questa, che non bisogna far scadere il dibattito, allora bisogna cominciare da qualche parte. E Mario Calabresi dice: lo dobbiamo fare ogni giorno e per questo da oggi vi raccontiamo cosa sono davvero le ONG e chi sono le donne e gli uomini che ci lavorano. Ma io credo che la maggior parte delle persone lo sappiano che cosa sono le ONG. Molti di noi hanno avuto a che fare o magari hanno anche prestato la loro opera di volontari con le ONG. Non so, come vi dicevo, insomma, se hai capito, questo editoriale mi ha lasciato un po' perplessa. L'Avvenire ha un'apertura completamente diversa, perché il Ministero per l'Università e la Ricerca e la Presidenza del Consiglio hanno presentato un piano da 3 milioni di euro per la prevenzione a scuola degli abusi di droghe e alcol. Sicuramente un tema di attualità, visto anche i fatti di cronaca. Lo ricorderete, 10 giorni fa la ragazza morta a Genova aveva solo 16 anni per aver preso una pasticca di ecstasy. E poi la fotonotizia dedicata invece all'altra grande questione di politica internazionale, che è quella lo scontro per ora a suon di dichiarazioni molto minacciose tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti, e in particolare la reazione della Corea del Nord alle sanzioni imposte dall'ONU, che sono state caldeggiate dagli Stati Uniti, e per questo le sanzioni ONU non fermano le minacce di Kim, che è il suo presidente, ha dichiarato: sarà una tremenda, terribile, terribile vendetta la nostra contro gli Stati Uniti. Vi segnalo la prima pagina della Gazzetta dello Sport, perché ha un grande spazio dedicato all'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, che ha la sua prima stagione all'Inter e viene definito l'uomo dei sogni. Ma un grande spazio, e poi l'approfondimento lo trovate alle pagine 26 e 27, poi lo vedremo insieme, sulla vicenda che avete sentito anche nel GR della tennista Sara Errani, che appunto è stata accusata di doping, poi si è giustificata dicendo che il farmaco era finito per sbaglio, questo farmaco che è una forma di doping, era finito per sbaglio in un piatto di tortellini. Non si capisce bene chi li avesse fatti, perché tra i fatti bizzarri di ieri c'è stata anche una perquisizione nello stabilimento di Giovanni Rana, ma la madre aveva parlato, che tra l'altro è una farmacista, aveva parlato di un impasto fatto da lei, quindi è un po' così, un po' poco chiara questa vicenda. Comunque domani ci sarà una conferenza stampa a Milano proprio di Sara Errani. La prima pagina del Messaggero, anche in questo caso dedicata alla vicenda dei migranti, e il Messaggero scrive: vince la linea Minniti. La fotonotizia però è dedicata al rogo di Tivoli, anche per ragioni proprio geografiche, diciamo, perché il Messaggero è un quotidiano di Roma e appunto questo incendio è avvenuto a Tivoli e sono morte due donne, madre e figlia. E poi in prima pagina un articolo che trovate poi a pagina 13, curioso, definiamolo così. Sapete che Francesco Schettino, il comandante della nave della Costa naufragata e che ha provocato così tanti morti, è stato di recente condannato a 16 anni, quindi è in carcere, e dice: meditazione e tennis, ecco la mia vita in carcere, l'ha raccontata alla giornalista del Messaggero Cristiana Mangani. Il Giorno si concentra sul lavoro, un po' come prendendo spunto dalla notizia che abbiamo visto anche sulla prima pagina del Sole 24 Ore, il probabile addio ai bonus per i lavoratori assunti nel 2015, che ovviamente implicherà un costo maggiore del lavoro per le imprese, e il titolo: un futuro da licenziati, i sindacati temono un'ondata di tagli. E vi leggo la rubrica che non tutti i giorni, ma ogni tanto, adesso non ricordo esattamente la scadenza, comunque si alterna con altri editorialisti, Vittorio Sgarbi ha sulla prima pagina del Giorno. si intitola autoironicamente Sgarbi contro le capre. Sapete che uno dei suoi interventi più famosi è quello in cui dava della capra a una persona e poi lo rifà periodicamente quando pensa che il suo interlocutore sia ignorante. Il titolo di questo brevissimo editoriale che adesso vi leggo è «Caro Vescovo, i soldati servono su quelle navi» ed è sulla questione dei migranti. Vorrei dire al Vescovo di Ferrara, Giancarlo Perego, che anche le guardie svizzere sono armate, come è armato l'esercito italiano che difende le chiese cristiane in Kosovo da aggressioni musulmane. Troppo facile l'equazione «l'uomo disarmato salva, l'uomo armato uccide». Come può intendere Monsignor Perego, gli agenti armati nelle strade, di scorta ai magistrati, nei musei, tutelano, non aggrediscono. Scrivere sulla scorta di Saviano un'eventuale presenza militare sulle navi delle ONG non farebbe altro che indebolire e non facilitare il salvataggio in mare, che deve essere la prima cosa da salvaguardare, vuol dire considerare i soldati solo in chiave offensiva. Vuol dire negare lo Stato che ci difende con le forze dell'ordine. La Stampa, titolo anche in questo caso sulla questione, su quello che sta succedendo all'interno del governo: Mattarella blinda Minniti sui migranti e salva il governo. La fotonotizia però è dedicata a un lungo articolo di Gianni Riotta che si intitola Generazione Smartphone, è la generazione indiana, dei più giovani indiani, dove in India, che è il paese più popoloso del mondo insieme alla Cina e sono un po' testa a testa, è in corso una rivoluzione digitale. Il nuovo sistema connette dati per 1 miliardo di cittadini, ma c'è anche un allarme hacker. Il reportage di Flavia Amabile da Amatrice mette una tristezza infinita, si intitola Le casette dei terremotati già da buttare e si parla di tutti i disagi che vivono le persone alle quali sì è stata data una casa per avere un tetto dopo che nel terremoto del 24 agosto scorso avevano perso la loro, ma queste soluzioni abitative di emergenza, cosiddette, si chiamano così, hanno anche un acronimo SAE, in realtà non fanno acqua da tutte le parti, potremmo dire letteralmente, nel senso che se piove piove all'interno di queste case. Il Fatto Quotidiano torna, la posizione del Fatto Quotidiano, io come forse sapete se mi seguite un pochino a questa rassegna stampa, raramente sono d'accordo con Marco Travaglio, però su questa questione dell'umanitarismo militante, possiamo dire così, sono d'accordo con quello che ha scritto Marco Travaglio, ma anche altre persone sul Fatto Quotidiano. Ieri c'è stata tra l'altro un'intervista a Giuseppe Lo Bianco, di Giuseppe Lo Bianco al procuratore Nicola Gratteri. Insomma, ci sono, per tornare a quello che diceva Calabresi, ci sono molti dati di fatto su cui riflettere per farsi un'idea, anche suscettibile naturalmente poi di correzioni su questa questione, sul codice delle ONG. E l'editoriale di Marco Travaglio di oggi si intitola ONG o OGM e parla proprio di come sia necessario fare chiarezza soprattutto su questa questione dei contatti tra le navi delle ONG e gli scafisti per organizzare questi trasbordi di migranti. L'editoriale l'ho trovato sulla prima pagina del Fatto, che dedica l'apertura in realtà anche qui a tutti i problemi della ricostruzione e in questo caso per riparare i danni degli incendi. Per riparare l'Italia promessi 9 miliardi, spesi solo 110 milioni, e c'è anche naturalmente un riferimento alla tragedia di ieri di Tivoli. Ci fermiamo per una breve pausa, ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666. La precisazione sul fatto che Del Rio è in qualche modo competente sulla questione dei migranti, perché in quanto ministro delle infrastrutture ha la responsabilità della Guardia Costiera, è sicuramente doverosa. Resto però dell'idea che aprire un dibattito pubblico in un momento così delicato, attaccando il ministro Minniti, che oggettivamente sta cercando di fare delle cose concrete, mi sembra così uno spreco di energie, ecco, mettiamola così. Libero titola sulla notizia, anche qui tristissima, di ieri dei gruppo di vigili del fuoco volontari. Sono stati arrestati perché appiccavano roghi in Sicilia per poterli poi spegnere, quindi appiccavano roghi per lavorare. Il giornale titola Il grillo taroccato, quindi ancora diversa l'apertura e il riferimento. A proposito di hacker, abbiamo visto c'è un pericolo anche in India, che è in piena rivoluzione digitale. Sappiamo che è stata attaccata anche la piattaforma del Movimento 5 Stelle e oggi il giornale torna su questa vicenda. L'editoriale di Alessandro Sallusti però parla delle imminenti elezioni in Sicilia. Ogni giorno abbiamo qualche notizia su come si stanno organizzando le forze politiche per queste elezioni regionali che si terranno il 5 di novembre. Il centrodestra pare avviato verso l'unità, anche se c'è la questione Alfano da risolvere, perché Matteo Salvini non vuole saperne di entrare in una coalizione che comprenda anche Alfano. Invece il centrosinistra non ha ancora un candidato. La verità: i clandestini si prendono le città e nel governo litigano sulle ONG. A Napoli una masdada di stranieri, è un fatto di cronaca successo ieri, circonda 5 soldati e tenta di strappare loro un fermato. La fotonotizia però è dedicata a Emanuele Fiano, che viene definito il pretoriano di Renzi ossessionato dal Duce. E c'è uno dei ritratti di Giancarlo Perna, che è un specializzato in questi ritratti di politici, lo trovate poi a pagina 11. Sicuramente Emanuele Fiano alcune contraddizioni nel suo comportamento le ha, e forse può essere non simpaticissimo, però che sia ossessionato dal Duce, essendo ebreo, sì, certo, di una generazione che non ha conosciuto direttamente l'Olocausto, ma i suoi genitori sì, i suoi nonni anche, quindi che sia ossessionato dal Duce in qualche modo, da quel periodo che viene purtroppo associato all'alleanza del fascismo con il nazismo, non mi sembra così strano. In ogni caso poi trovate appunto questo ritratto a pagina 11. Vi segnalo, a proposito di magistrati militanti, tante volte si è detto che i magistrati dovrebbero, anche se ex, dovrebbero tenersi lontano dall'opinionismo di professione. Bruno Tinti, che è stato editorialista e anche azionista del Fatto Quotidiano, qui non si capisce se lo è ancora. In ogni caso, chi legge, chi compra il Fatto ha letto spesso i suoi articoli, ha scritto anche molti libri. Adesso è diventato editorialista della Verità. E il titolo del suo primo articolo, che poi trovate a pagina 9, è Tra spalatori e scalatori è la corrente il cancro della giustizia. Sul Foglio trovate un altro intervento di Giuliano Ferrara, fondatore del Foglio, che si occupa di Venezuela, che è l'altra crisi, veramente grande crisi politica e non solo mondiale di questo momento. Il titolo è Il disastro apocalittico venezuelano dimostra che la rivoluzione senza elite è solo l'involuzione verso l'autoritarismo brutale. Il Secolo XIX, ve lo segnalo, il giornale di Genova, perché ha una lunga intervista a Luca Bizzarri, che diventerà presidente della Fondazione Palazzo Ducale. Luca Bizzarri è un comico e adesso ha questo ruolo in cui dovrà occuparsi di... Io credo che anche la comicità possa essere una forma di cultura, ma in ogni caso Palazzo Ducale ovviamente è cultura in un senso molto più ampio, e quindi questa scelta è stata molto criticata. C'è anche un'intervista sul Secolo XIX allo storico partner comico appunto di Luca Bizzarri, che è Paolo Kessisoglu, che dice Luca è fantasia allo Stato libero, vi sorprenderà. Il Manifesto, pronto soccorso, e il riferimento è a Mattarella, che è andato appunto in soccorso del governo per mettere pace tra Del Rio e Minniti. Vi segnalo la prima pagina di Italia Oggi, perché c'è un editoriale di Pierluigi Magnaschi su un'altra questione che in realtà sfugge un pochino ai giornali, perché quello che si scrive oggi dalla Francia, da Parigi, riguarda soprattutto l'idea che non venga dato un grande staff alla moglie di Macron. Vabbè, grande notizia, ma in realtà la notizia è, e ce lo racconta Pierluigi Magnaschi sulla prima pagina d'Italia Oggi, è che Macron ha soli 3 mesi dalla sua elezione, che era stata descritta come trionfale, è già in caduta libera. La sua popolarità in Francia nel giro di questo brevissimo lasso di tempo è già precipitata del 10% e pertanto si colloca al livello che aveva alla medesima distanza dalla sua elezione il suo rovinoso predecessore François Hollande, che come noto finì così in basso al termine del suo mandato presidenziale da decidere di non presentarsi. Le ragioni di questo sono molte, sicuramente il fatto che Hollande Macron sta introducendo riforme che saranno anche dolorose per certi versi, ma forse ci sono anche altri problemi, la sua immagine è un po' intaccata, c'è un ascoltatore che dice colpa della moglie. Sorrido perché naturalmente non sono d'accordo, ma forse è soltanto appunto un forse non lo pensa neanche lui, neanche questo ascoltatore. E le prime pagine dei giornali stranieri, la Frankfurt Allgemeine, il quotidiano tedesco, ha un editoriale molto interessante sulla prima pagina che si intitola Schrecken ohne Ende, cioè terrore senza fine, ed è un'analisi di quello che sta succedendo in Venezuela. Secondo, è una visione pessimistica ovviamente, secondo il quotidiano tedesco non è facile intravedere la fine del terrore, cioè la fine anche quindi di Maduro, che si sta comportando come un vero e proprio dittatore, è piuttosto probabile invece che ci sia continui questo terrore senza fine. Dalla prima pagina, nelle pagine di economia, un'analisi invece del tanto messo sotto accusa surplus commerciale della Germania. Il Washington Post ha una notizia invece che riguarda i cambiamenti climatici, con molta enfasi sulla prima pagina. I ghiacciai del Perù sono un test per capire il cambiamento climatico e non sono buone notizie. Poi c'è naturalmente approfondimenti su quello che sta succedendo a Washington, anche se in questo momento il Congresso, come la maggior parte dei parlamenti occidentali, il Congresso americano è in ferie anche Donald Trump, anche se ha risposto alle critiche dicendo che anche se non è a Washington o alla Casa Bianca comunque userà le vacanze anche per lavorare e avere contatti. E poi c'è anche naturalmente la notizia della Corea del Nord. Le Figaro invece cita il fatto che anche in Francia stanno andando tutti in vacanza, e anche questo, tutti i politici, e anche questo, anche se sappiamo che almeno i giornali raccontano che Macron tempesta i suoi ministri di telefonate, anche perché lui dorme pochissimo e lavora quindi moltissimo, e perciò vorrebbe che anche i suoi collaboratori, in primis i ministri, facessero altrettanto. Ma c'è un ultimo voto al Parlamento prima della pausa estiva e riguarda una legge che viene definita proprio della moralisation de la vie publique, quindi la moralizzazione della vita pubblica, una stretta anche qui per cercare di limitare i casi di corruzione e malversazione. Questa è una scena molto familiare per noi italiani, il Parlamento era semideserto. Il Guardian, molte notizie sulla prima pagina del Guardian, dai mondiali di atletica naturalmente di Londra, che in Italia sembrano fare un po' poca notizia, forse perché non abbiamo tanti atleti con possibilità di medaglie. Poi la notizia del divorzio, del terzo divorzio di Roman Abramovich, che è uno degli uomini più ricchi di residenti nel Regno Unito, anche se naturalmente le sue origini sono russe, oltre che proprietario del Chelsea, una delle squadre di calcio inglesi più famose. Ma vi dicevo, tante notizie, per esempio questa di cronaca, che a distanza di 16 anni dall'attacco alle Twin Towers dell'11 settembre, il famoso 9-11 come lo chiamano gli americani, che mettono prima il mese e poi il giorno il giorno del mese, quindi appunto 9 settembre 11, sono stati trovati i resti di una persona che è stata identificata appunto a distanza di 16 anni. Veniamo alle pagine interne dei giornali e torniamo sul Sole 24 Ore. Da una parte, l'avevamo visto ieri sui giornali tedeschi, un approfondimento a pagina 6 sulla Dieselgate, perché il Dieselgate finisce nell'urna, come abbiamo visto appunto ieri, perché c'è questa bufera su un dirigente della SPD in quel land della Bassa Sassonia, che sarà un land molto importante alle elezioni politiche di ottobre. E intanto il governo ha comunque, la SPD è il partito di opposizione, ma un po' giocando di anticipo, se vogliamo, il governo sta annunciando nuove misure per le auto elettriche. Molto interessante l'analisi di Roberto Darin, che parte un po' dal fatto di cronaca del Venezuela, che è uno dei membri del Mercosur, cioè il mercato comune dell'America del Sud, che viene indebolito ovviamente da questa crisi economica venezuelana. E quindi c'è una interessante tabella, trovate tutto a pagina 6, sull'interscambio dell'Unione Europea con i paesi del Mercosur. Vi dicevo tutti gli articoli sulla disoccupazione giovanile, quindi quello di Carlo Carboni che inizia in prima pagina e poi lo tratta a pagina 8, le riforme, il punto cieco dei giovani, appunto in un paese dove la disoccupazione giovanile supera il 40%, perché servono misure di decontribuzione e il potenziamento delle politiche attive. E purtroppo potremmo dire, come abbiamo appena sentito, in realtà il bonus, questa forma di decontribuzione sulle assunzioni, sulle nuove assunzioni, potrebbe finire. Vi dicevo, l'articolo su Amazon lo trovate a pagina 12 con l'analisi, quello sulla voluntary disclosure che è poi la puntata numero 7 dell'agenda del professionista a pagina 16. E poi spostiamoci sul Corriere, c'è un reportage dal Kenya di Michele Farina. Abbiamo raccontato di queste elezioni in Kenya, si tengono oggi, sono le presidenziali del Kenya. Il Kenya è sicuramente un paese, abbiamo sentito anche con i fatti di cronaca più recenti, dove si nasconde ancora molta violenza legata principalmente alle disuguaglianze economiche, tanto che il racconto appunto di Michele Farina di questo paese diviso, regine e baraccopoli nel Kenya blindato dove le città fanno paura. Oggi le presidenziali con i timori di violenze etniche che purtroppo non soltanto in Kenya sono molto frequenti. Una storia che avete forse sentito qui a Radio 24 raccontata da Musumeci, dal nostro giornalista di Nessun Luogo Lontano. Questa storia, questa da Guerra Fredda, da romanzo di Le Carré, il vietnamita rapito dalle spie, intrigo internazionale a Berlino. L'uomo aveva chiesto asilo politico in Germania, ma in realtà appunto è poi stato rapito in una di queste operazioni dei servizi segreti, e quindi adesso si profila davvero una crisi diplomatica tra Berlino e Hanoi. Allora, la questione del doping di Sara Errani, vi leggo poi una parte dell'articolo di Marco Bonarrigo e Gaia Piccardi a pagina 39 del Corriere della Sera, ma prima una seconda pausa per gli aggiornamenti sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Dicevamo, la questione del doping del quale è stata accusata la tennista Sara Errani. A pagina 39 vengono un po' riassunti i punti salienti che secondo me sono appunto il che cosa effettivamente faccia questo farmaco, che è un farmaco usato nella terapia del cancro al seno, ma è letteralmente, scusate, uno stimolatore ormonale. Ed è una, scusatemi, è una delle sostanze proibite dall'Agenzia Mondiale Antidoping, la WADA. È un farmaco che appartiene, per chi proprio vuole avere i dettagli, alla classe degli inibitori della aromatasi. Grazie alla sua azione, il letrozolo è impiegato nel trattamento dei tumori. Però appartiene alla classe degli steroidi, quindi per questo è considerato una forma di doping. Mi manca, forse i giornali non hanno avuto tempo di farlo, ma forse verrà fuori nella conferenza stampa annunciata per domani, capire effettivamente quali possono essere i vantaggi di un atleta che prende questo farmaco. La giustificazione di Sara Errani, che evidentemente ha convinto i giudici perché le hanno dato solo 2 mesi di squalifica, è che questo farmaco, cioè regolare certificazione di questo, lo prende la madre per curare appunto il suo tumore. E siccome sono delle pastiglie, una pastiglia che, come penso la maggior parte delle pastiglie, deve essere assunta con del cibo, era in cucina stranamente, mentre la madre... No, non stranamente, se effettivamente il fatto è questo, cioè che doveva, la madre doveva, mentre preparava da mangiare per la figlia, doveva anche mangiare lei per poi prendere questa pillola. Insomma, la pillola sarebbe finita nel brodo, oppure si dice nell'impasto, però poi, come abbiamo visto, c'è stata la perquisizione di uno stabilimento della rana, quindi una vicenda che speriamo venga chiarita meglio, perché così non sembra proprio trasparente nella conferenza stampa annunciata per domani a Milano. Dalla Repubblica un interessante articolo di Federico Rampini, che si occupa di Mark Zuckerberg, che è il fondatore di Facebook, è uno degli uomini più ricchi degli Stati Uniti e del mondo. Si dice da parecchio tempo che stia pensando a una sua partecipazione più attiva alla vita politica, anche se in un certo senso già ha partecipato, perché oltre ad aver sostenuto Barack Obama nelle elezioni precedenti e poi ad aver sostenuto Hillary Clinton contro Donald Trump, ha intrapreso questo viaggio per 30 stati, ha dichiarato più volte che lo fa per conoscere meglio il suo paese e gli americani, ma in molti pensano che in realtà sia appunto una preparazione, devo dire anche una preparazione seria se vogliamo, all'idea di lanciarsi in una qualche battaglia politica più concreta, diciamo. Quindi non lo so, si può pensare a un ruolo in California, dove lui vive, o magari addirittura qualcosa a livello nazionale. Comunque vedremo. Vi segnalo, mi lascia veramente così quasi senza parole il fatto che questo addio di Carla Del Ponte, magistrato, lei ha fatto la sua carriera prima come magistrato in Svizzera, ma è stata soprattutto il presidente del Tribunale per i crimini contro l'umanità della guerra nell'ex Jugoslavia. È da 7 anni si segue questa commissione per i crimini di guerra in Siria, una commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite. Ha lasciato il suo ruolo dicendo: non c'è giustizia, non si riesce a fare giustizia, non si riescono a ottenere informazioni, io lascio. E questa cosa è praticamente caduta nel vuoto, e soprattutto mi ha anche subito fatto pensare al fatto che, fateci caso, la Siria è sparita dai giornali. Vogliamo pensare che sia perché tutto è a posto in Siria? Ovviamente no, e credo che insomma, come a volte sogno di avere un giornale in cui alcune delle pagine sono dedicate agli aggiornamenti sulle crisi in corso di ogni genere, cioè che vadano, che si seguano le cose anche dopo che è stato analizzato ed è passato il fatto di cronaca più recente. Dalla pagina sulla Gazzetta, vi dicevo, anche qui molto approfonditi gli articoli sul caso Errani, li trovate a pagina 26 e 27. Curioso, anche se forse non so neanche se è giusto fare dell'ironia o ridere di questa questione del doping. Abbiamo visto nei giorni scorsi, anche abbiamo citato nella rassegna dei settimanali, tutti gli atleti come la Isibaeva, la grande saltatrice con l'asta russa, che si battono nella loro seconda vita, dopo che hanno lasciato l'agonismo, per spiegare ai giovani che il doping è una scorciatoia che non porta niente di buono, magari porta dei risultati immediati, ma sono farmaci talmente pesanti che hanno comunque delle conseguenze sulla salute. Quindi per questo dico, non so quanto ci sia da ironizzare. In ogni caso, a pagina 26 trovate questa carrellata di tutte le scuse usate dagli atleti accusati di doping: cocaina nelle caramelle della zia o in un bacio, carne di cinghiale, doping vuol dire fantasia. Una interessante intervista a Fabio Serini, commissario dell'ente previdenziale del comune, che parla di un'altra notizia un po' da mani sul velante che riguarda Roma, come se non bastassero tutti gli sprechi e gli scandali e la corruzione dell'azienda municipalizzata che si occupa del trasporto pubblico e poi di quella che si occupa dell'acqua. spese pazze e prestiti per tutti, il grande spreco in Campidoglio. Preciso, prima che magari arrivi qualche messaggio degli esponenti o simpatizzanti del Movimento 5 Stelle, naturalmente sono questioni che risalgono a molto prima dell'insediamento della Giunta Raggi, che comunque adesso è ormai un anno che guida Roma. Il sindaco di Roma ha presentato, tra l'altro è stato appunto proprio il sindaco di Roma Virginia Raggi a presentare un esposto per riferire tutto quello che succede all'interno dell'IPA, questo ente previdenziale che fornisce assistenza ai 30.000 dipendenti del comune e che però appunto ha una si scopre, se si va a indagare con un commissario, come in questo caso, quante malversazioni ci siano state. In campo sanitario ci sono molte pratiche poco trasparenti, bandi senza gara, investimenti senza risultati. Siccome la questione dei migranti è naturalmente importantissima per tutti, anche per chi, come magari noi che abitiamo a Milano, siamo toccati molto marginalmente, perché credo che le persone che hanno i rapporti più diretti con queste onde migratorie, cioè in particolare naturalmente quelli che vivono nei posti dove queste persone sbarcano, nei pressi dei centri di prima accoglienza, loro sì che potrebbero raccontare appunto gli effetti di queste ondate migratorie. Ma è una questione che comunque nessuno di noi può ignorare, e quindi vi segnalo ancora una volta gli approfondimenti fatti dal Foglio, e anche qui non è per tornare all'editoriale di Calabresi, ci sono tantissimi numeri, tantissimi spunti per ragionare, non si tratta di ondate melmose, come le ha definite Calabresi, di informazione scorretta. Il titolo di uno degli articoli del Foglio di oggi è "Aiutiamoci a casa nostra". L'emergenza migranti non è numerica, ma è legata prima di tutto al deficit organizzativo. Uno studio di Banca Italia, non né di una ONG né di chissà quale organizzazione antimigrazione, per orientarsi nell'estate delle fake news. Per esempio un numero: l'Italia, con oltre 268.000 richieste, ha assorbito poco meno del 9% delle istanze di protezione internazionale all'Unione Europea, però la lunga attesa per l'esame della domanda di protezione internazionale prolunga la permanenza nei centri, ovviamente ne aumenta i costi e tutti anche i rischi di mala gestione, come sappiamo, e nonché di corruzione, persone che lucrano sulla gestione di questi centri di prima accoglienza. Un'altra vicenda che sembrava chiarissima e che adesso invece sta diventando molto più oscura è quella della ragazza inglese che ha spiegato di essere stata rapita per poi essere venduta, però su Libero, a pagina 16, Cristiana Lodi ci racconta nuovi particolari che stanno emergendo. È stata vista fare shopping questa ragazza con il suo aguzzino, questo Herba Lucas Powell, di cui c'è anche una foto, e non è appunto non è chiaro, ci sono altri aspetti non molto chiari. In ogni caso si stanno facendo delle indagini, quindi forse presto si arriverà a una versione più coerente con i fatti e le prove. L'ultimissima segnalazione dal Giornale, un articolo di Annalisa Chirico che prende spunto da un post fatto su un forum di Google che è stato subito bollato come sessista, dove in realtà ci sono alcune frasi che, come dice Annalisa Chirico, sono abbastanza condivisibili, per esempio che le donne e gli uomini sono biologicamente diversi, e Annalisa Chirico dice: e dov'è lo scandalo? Comunque trovate tutto a pagina 16, ma anche su molti altri giornali, con una posizione fin dal titolo diversa da quella di Annalisa Chirico. Era l'ultima segnalazione per oggi, grazie a Carmelo Lauricelli in regia, grazie a tutti gli ascoltatori, appuntamento a domani.